140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Un album dal vivo, un tour nei club, un inedito con Ligabue, 9 live and live. In negrita, nelle parole di Drugo. Mi sembra che questo progetto, questo disco, questo tour significhino intanto una cosa, che c'è ancora tanto bisogno di rock. Beh, per noi sì, c'è tantissimo bisogno di rock. Anche i tour che stiamo facendo nei club hanno una scaletta che predilige esclusivamente il rock. Abbiamo una carriera fatta anche di canzoni pop, le abbiamo per questa volta, per questo giro che facciamo, le abbiamo tolte e veramente ci confrontiamo dentro i club, che sono gli ambienti in cui appunto il rock nasce. È stupendo. Club, la differenza tra suonare in un club e in un palazzetto, mi ha molto divertito quando ne avete parlato in conferenza stampa, perché sono due spiriti diversi, appunto quasi due musiche diverse. Per chi suona, due sensazioni diverse, però forse qua del club è molto particolare. Sì, avere la gente addosso, proprio quasi volto contro volto, ti dà la possibilità anche nella gestualità di essere più espressivo. In un palazzetto certi dettagli vengono a mancare, cioè nel palazzetto puoi proporre uno show che è fatto di immagini, contributi visivi, ma quello che avviene dentro un club non è ripetibile dentro un palazzetto. I tempi cambiano, nel tempo di una canzone, i tempi cambiano, e il mondo è in agitazione, e i venti portano un rullo di tamburi, fuori le spade e tanti auguri. Hai smarrito le istruzioni per le tue rivoluzioni, vengo a prenderti e tieniti stretta un po' più forte, che anche se cambia l'orizzonte non cambierà di un attimo il tempo insieme a te. Tienimi stretto un po' più forte finché riusciamo a andare. State girando. L'impressione è che questo tour, in varie forme, non abbia soluzioni di continuità. Ormai state l'uno accanto all'altro da un bel po' di tempo. Vi sopportate, vi amate sempre. Sì, assolutamente. Abbiamo fatto tantissime cose negli ultimi anni. Venivamo da un tour e ci siamo tuffati in un'esperienza particolarissima, che è stata partecipare per un paio di mesi al musical Jesus Christ Superstar a Roma. E siamo andati in replica per 2 mesi di seguito insieme a Ted Neely, che è l'attore originale del film, che è leggendario, una persona straordinaria e ispirante. Anche quella è stata un'esperienza che ci ha dato molto. Mentre eravamo a Roma per partecipare a questo musical, dedicavamo parte della mattinata e il resto del pomeriggio in studio a comporre l'album 9. Poi siamo andati in tour, insomma è un bel po' che non ci fermiamo. Sì, siamo a questo punto, abbiamo voglia di uno stop. Infatti, finito questo tour, ci prenderemo 4-5 mesi di pausa per ricaricare le batterie. Lui vomita commenti spietati ed arroganti, fa la predica e ti giudica, ma se replichi lui si vendica. Fare a meno di quelli che non sbagliano mai. amici, amici con i quali avete collaborato, con i quali tornate a collaborare? Torna il nome di Ligabue, ad esempio, che per voi è stato importante. Che importanza hanno avuto gli incontri in questi anni? Fondamentale. Luciano, ad esempio, lo contattammo quando ancora avevamo una cassettina, un demo tape, ancora c'erano le cassette, e passava da, suonava a Firenze, Fabrizio Barbacci, che è il nostro produttore, gli portò la cassetta per fargli sentire la nostra musica, la nostra proposta e chiedergli qualche opinione. La sua risposta fu: io non posso far altro che dire che a questo gruppo non manca niente, non posso darvi consigli, avete già il vostro sound. Ma tanti altri incontri sono stati fondamentali. C'è ancora qualcosa che dici adesso di questo avremmo voglia? C'è una cosa che mi piace tanto, è lavorare alle hit. Scrivere una hit è una cosa, è una delle gare più avvincenti che ci siano. Riuscire a conquistarla è sempre una grandissima soddisfazione. Si vive facendo musica, la musica che ti pare, ma scrivere una hit ti dà quella possibilità di avere la gratificazione che a tutto il lavoro e l'impegno che metti nel tuo lavoro. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Drugo. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.